l'immenso soffio dell'oceano, le spinge via con sé a naufragare su spiagge chiare, a un passo dalla vita muoiono conchiglie e nelle orecchie ancora il mare. S'arrampicano in cima con quei ginocchi secchi e tutto il mondo giù respirano. Si fanno roccia e al sole un'altra volta guardano, poi chiudono per sempre gli occhi, gli stanchi. Ed io ti chiedo perdono se, fratello, a volte tu mi hai fatto male. Io non potevo essere come te, un mago, un angelo immortale. Pace a noi che abbiamo avuto tanto da smarrir la luce della semplicità. Quando poi si nasce e il primo grido è un pianto, è un bambino, è un uomo che il suo nome non sa dire mai. Nel buio della terra aspettano finché lassù una notte più irreale come una cattedrale nell'aria antica cantano. Per una sola estate le cicale, l'amico cante mentre era in volo sopra un prato, che le sue ali non si aprirono di quei poeti che un giorno si smarrirono. Lui sì che mi trattò da uomo e adesso è andato, ed anche noi ci lasciamo qui, fratello, e non dobbiamo dirci niente, ci serve pure d'arrivare lì e ripartire nuovamente. Pace a me che non so amare ancora ciò che ho e non so non amar quel che non ho. Fermo sull'abisso tra il rischio e la paura, quel che non mi uccise mi lasciò la forza di vivere. Pace a te per quello che mi hai dato e per tutto ciò che forse un mondo uomo sotto un cielo.